Diciannovesimo canto del Purgatorio dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Purgatorio, diciannovesimo canto. Nell'ora che non può il calor diurno intepidar più il freddo della luna, vinto da terra e talor da Saturno, quando i geomanti lor maggior fortuna veggiono in oriente, innanzi all'alba, surger per via che poco le sta bruna, mi venne in sogno una femmina balba, negli occhi guercia e sovra i piè distorta, con le man monche e di colore scialba. Io la mirava, e come il sol conforta le fredde membra che la notte aggrava, così lo sguardo mio le facea scorta la lingua, e poscia tutta la drizzava in poco d'ora, e lo smarrito volto, come amor vuol, così le colorava. Poi che l'avea il parlar così disciolto, cominciava a cantar sì che con pena da lei avrei mio intento rivolto. Io son, cantava, io son dolce serena, che marinari in mezzo mar dismago, tanto son di piacere a sentir piena. Io volsi Ulisse del suo cammin vago al canto mio, e qual meco sua usa, rado sen parte, sì tutto l'appago. Ancor non era sua bocca richiusa, quand'una donna apparve santa e presta, lunghesso me, per far colei confusa. «Oh, Virgilio, Virgilio, chi è questa?» fieramente dicea, ed el venia con gli occhi fitti, pur in quella onesta. L'altra prendea, e dinanzi l'apria, fendendo i drappi, e mostravami il ventre. Quel mi svegliò col puzzo che n'uscia. Io mossi gli occhi, e il buon maestro, almen tre voci t'ho messe, dicea, surgi e vieni, troviam l'aperta per la qual tu entre. Su mi levai, e tutti eran già pieni dell'alto dì i giron del sacro monte, e andavam col sol novo alle reni. Seguendo lui, portava la mia fronte, come colui che l'ha di pensier carca, che fa di sé un mezzo arco di ponte. Quand'io udii, venite, qui si varca, parlare in modo soave e benigno, qual non si sente in questa mortal marca. Con l'ali aperte, che parean di cigno, volseci in su colui che sì parlonne, tra due pareti del duro macigno. Mosse le penne poi e ventilonne. Qui lugent affermando esser beati, ch'avran di consolar l'anime donne. Che hai che pur inver la terra guati? La guida mia incominciò a dirmi, poco amendue da l'angel sormontati. E io, con tanta suspeccion fa irmi, novella vision, a sé mi piega, sì ch'io non posso dal pensar partirmi. Vedesti, disse, quell'antica strega che sola sovra noi omai si piagne, vedesti come l'uom da lei si slega. Bastiti e batti a terra le calcagne, gli occhi rivolgi al logoro che gira, lo rege eterno con le rote magne. Quale il falcon che prima a pie si mira, indi si volge al grido e si protende per lo disio del pasto che là il tira, tal mi fec'io e tal quanto si fende la roccia per dar via a chi va suso. N'andai infin dove il cerchiar si prende. Com'io nel quinto giro fui dischiuso, vidi gente per esso che piangea, giacendo a terra tutta volta in giuso. ad esit pavimento, anima mea, sentia dir lor con sì alti sospiri che la parola appena s'intendea. O eletti di Dio, li cui soffriri e giustizia e speranza famen duri, drizzate noi verso gli alti saliri. Se voi venite dal giacer sicuri e volete trovar la via piuttosto, le vostre destre sien sempre di fori. Così pregò il poeta e sì risposto, poco dinanzi a noi ne fu, perch'io nel parlare avvisai l'altro nascosto, e volsi gli occhi agli occhi al Signor mio, ond'elli m'assentì con lieto cenno ciò che chiedea la vista del disio. Poi ch'io potei di me fare a mio senno, trassimi sovra quella creatura le cui parole pria notarmi fenno, dicendo: spirto in cui pianger matura, quel senza il quale a Dio tornar non possi, sosta un poco per me tua maggior cura. Chi fosti e perché volti avete i dossi al su, mi di, e se vuo ch'io t'impetri, cosa di là ond'io vivendo mossi. Ed egli a me: perché i nostri diretri rivolga il cielo a sé, saprai, ma prima scies quod ego fui successor Petri. Intra siestri e chiaveri s'adima una fiumana bella, e del suo nome lo titol del mio sangue fa sua cima. Un mese e poco più provai io come pesa il gran manto a chi dal fango il guarda, che piuma sembran tutte l'altre some. La mia conversione o me fu tarda, ma come fatto fui roman pastore, così scopersi la vita bugiarda. Vidi che lì non s'acquetava il core, né più salir potiesi in quella vita, perché di questa in me s'accese amore. Fino a quel punto misera e partita da Dio anima fui, del tutto avara. Or, come vedi, qui ne son punita. Quel ch'avarizia fa, qui si dichiara, in purgazion dell'anime converse, e nulla pena il monte a più amara. Sì come l'occhio nostro non s'aderse in alto, fisso alle cose terrene, così giustizia qui a terra il merse. Come avarizia spense a ciascun bene lo nostro amore, onde operar perdesi, così giustizia qui stretti ne tene. Ne piedi e nelle man legati e presi, e quanto fia piacer del giusto sire, tanto staremo immobili e distesi. Io m'era inginocchiato e volea dire, ma com'io cominciai ed el s'accorse, solo ascoltando del mio revenire, qual cagion, disse, in giù così ti torse? E io a lui: per vostra dignitate mia coscienza dritto mi rimorse. Drizza le gambe, levati su, frate, rispuose, non errar, conservo sono, teco e con gli altri ad una potestate. Se mai quel santo evangelico suono che dice neque nubent intendesti, ben puoi veder per ch'io così ragiono. Vattene omai, non vo che più t'arresti, che la tua stanza mio pianger disagia, col qual maturo ciò che tu dicesti. Nepote ho io di là, ca nome Alagia, buona da sé, pur che la nostra casa non faccia lei per essempro malvagia, e questa sola di là m'è rimasa. Fine del 19° canto del Purgatorio.